Respiro. Buongiorno carissimi ascoltatori, benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli, siamo nel vivo di COP15 a 3 anni dalla scadenza del protocollo di Kyoto e nel vivo del vertice di Copenaghen inizia il percorso per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni clima alteranti. Un incontro che si fa sempre più scontro tra paesi ricchi e quelli poveri in via di sviluppo. Martedì scorso, quando era circolata una bozza d'accordo presentata dai danesi, i rappresentanti dei G77, che raggruppa 131 paesi, soprattutto in via di sviluppo, avevano fatto sentire la loro voce dicendo che quel testo li scavalcava nei contenuti perché appunto non erano stati coinvolti nella discussione. I pilastri su cui ruota questo vertice COP15 sono gli stessi di sempre: trasferimento di tecnologie, adattamento e deforestazione. Scogli duri sono ancora una volta la riduzione delle emissioni e su tutti il capitolo che riguarda i finanziamenti, dove ci sarebbero solo impegni a breve termine fino al 2012. Parliamo dunque di questo oggi, ma partiamo dai piccoli per arrivare poi a fare un focus sui grandi della terra che si incontrano in questi giorni a Copenaghen. I piccoli sono i comuni e le città che si sono riuniti per quanto riguarda l'Italia sotto il cappello di Agenda 21. Si tratta di comuni italiani che da anni portano avanti progetti di riduzione delle CO2, come ad esempio il caso di Bologna, che nel 2006 ha ratificato un mini protocollo di Kyoto e sta rispettando tutte le promesse contenute all'interno di questo documento. Proprio oggi a Copenaghen Agenda 21 presenta il suo programma, ce ne ha parlato Emanuele Burgin, presidente appunto di Agenda 21. L'abbiamo chiamata dalla parte del pianeta l'Italia degli enti locali contro i cambiamenti climatici ed è l'unico evento che gli enti locali italiani organizzano a Copenaghen, presso questo Bella Center che è un po' il cuore di tutta quanta la conferenza. Cosa presentiamo? Presentiamo alcuni esempi di particolare rilievo e che riteniamo possano essere offerti all'attenzione della conferenza su iniziative sviluppate dagli enti locali italiani. In particolare abbiamo una presentazione delle linee guida per la contabilizzazione delle riduzioni di CO2 svolta dal Comune di Padova. Abbiamo una presentazione del Comune di Roma sulle politiche messe in atto dalla capitale sui cambiamenti climatici e abbiamo infine l'intervento dell'assessore ambiente della provincia di Salerno sul patto dei sindaci con l'esperienza sviluppata in quella provincia. Il tutto con una cornice che sviluppo io, che si chiama la Carta delle città e dei territori d'Italia per il clima, un documento di impegni elaborato dalla nostra associazione che ha raccolto strada facendo l'adesione di molti enti locali ed è un documento di impegni che non si ferma al tema abbondantemente discusso della riduzione delle emissioni, ma ragiona su un perimetro un po' più allargato di mitigazione e di adattamento rispetto ai cambiamenti climatici, il che comporta, lato pratico, non solo parlare di emissioni di CO2 per il consumo di energia, ma parlare di tutti quanti i temi ambientali, dall'acqua ai rifiuti agli acquisti verdi e via discorrendo. Siamo una rete di enti locali, abbiamo 400 e passa associati tra comuni, province e regioni. Siamo un po' la rete degli enti locali che guarda ai temi della sostenibilità con un'attenzione particolare e da 10 anni a questa parte attraverso il coordinamento si prende degli impegni, li porta avanti, li mette in rete e li divulga. Ecco, voi come Agenda 21 vi siete già posti come obiettivo la riduzione di oltre il 20% delle emissioni di gas serra, quindi a Copenaghen state arrivando in qualche modo potendo già portare un successo? Ci sono delle storie che si possono già cominciare a raccontare? Come dico, il documento di linee guida è un'elaborazione importante perché quando si parla di riduzioni davvero bisogna che ci mettiamo d'accordo su come le misuriamo, su come le quantifichiamo. Tante volte si parla di buone pratiche, buone azioni individuate singolarmente, puntualmente, ma non si ha il quadro d'insieme e non si è d'accordo sul metodo per misurare l'insieme delle tante azioni che gli enti locali possono fare. Essendo io di Bologna, le potrei parlare a lungo del progetto Micro Chioto, che a Bologna già da diversi anni stiamo portando avanti e che ci ha fatto vedere come attraverso tanti interventi in sé piccoli, in sé anche semplici dal punto di vista tecnologico, si possono mettere insieme risparmi importanti in grado di contribuire davvero, non in modo simbolico, agli obiettivi di Kyoto. Ecco, ad esempio, ci faccia qualche esempio concreto. Ma guardi, stando sul protocollo di Micro Kyoto che a Bologna ci siamo inventati nel 2002 e abbiamo formalmente siglato nel 2006, con l'adesione di ormai 30 comuni che rappresentano circa l'80% della nostra provincia, i nostri comuni si sono presi l'impegno, la provincia con loro, di realizzare interventi per la riduzione delle emissioni, che sono tipicamente interventi diretti, quindi installazione di pannelli fotovoltaici per sostituire l'energia elettrica acquistata dalla rete, sostituzione di caldaie. Molto spesso negli edifici pubblici si ritrovano ancora caldaie a gasolio, olio combustibile, e attraverso gli impegni di Micro Kyoto si è passati a caldaie metano a condensazione. C'è il grande tema dell'illuminazione pubblica, c'è una lampadina ogni 7 abitanti, un lampione ogni 7 abitanti in Italia, e ovviamente ci sono molti tipi di lampadine, doppi vetri. Tipicamente l'impegno diretto degli enti locali si rivolge al loro patrimonio, che è fondamentalmente un patrimonio edilizio, quindi edifici. A fianco di questo, l'anno scorso abbiamo esteso l'approccio di Micro Kyoto alle imprese, e dunque abbiamo coinvolto le associazioni di categoria Confindustria, API, eccetera, in un lavoro che nel primo anno di attività ha voluto dire analisi energetiche offerte dalla provincia a tutte le aziende che si impegnavano a mettere in pratica i risultati degli audit, delle analisi energetiche. Viene fuori che c'è un grandissimo potenziale di risparmio sul versante produttivo a livello di energia elettrica, perché l'uso dell'energia elettrica può essere fortemente razionalizzato, sia intervenendo sull'illuminazione, sia intervenendo sui cicli produttivi, perché tante volte si raffredda e poi subito dopo si riscalda, e si tratta di mettere appunto in rete il processo produttivo. C'è un lavoro sulle scuole, perché oltre così al lavoro diretto, oltre alle attività produttive, c'è un grosso lavoro sulle scuole che si può fare, dove gli interventi, per esempio installazioni di pannelli fotovoltaici magari di piccola taglia, che abbiamo fatto in questi anni, hanno soprattutto uno scopo dimostrativo, consentire agli insegnanti, che sono i soggetti dell'educazione dei ragazzi, di utilizzare il pannello fotovoltaico non solo per dire guardate che cosa bella che c'è sul tetto, ma spiegare come funziona, quali sono i potenziali di risparmio, di CO2, eccetera, eccetera. Quindi un lavoro a tappeto, perché attraverso gli enti locali può passare così non un grande intervento, ma tantissimi piccoli interventi che messi assieme fanno un bel lavoro. Quello che voi state facendo come Agenda 21 funziona soprattutto nei piccoli comuni, mentre già spostandosi da un piccolo comune a una grande città, tutto quello che voi state facendo in qualche modo deraglia o comunque viene portato avanti solo in alcune situazioni. Non sarei totalmente d'accordo, nel senso che prego. In Agenda 21 ci stanno piccoli comuni, ma pure altri di importanza nazionale, voglio dire Milano, Roma sono comuni aderenti all'Agenda 21 che portano avanti questo tipo di interventi. Poi in generale a livello europeo c'è un documento già formalizzato l'anno scorso e che via via i comuni stanno proponendo, che si chiama Carta dei Sindaci, che come tutte le cose europee richiede non solo la formalizzazione di un piano di intenti, ma anche una rendicontazione annuale di quello che si è fatto, e dunque c'è un obbligo a fare le cose. Respiro. Bentornati a Respiro. E dunque, a Copenaghen l'Unione Europea sta assicurando che dovrebbe riuscire a mantenere una buona posizione sui temi ambientali e di riduzione della CO2. Ma prima di capire come andrà a finire Copenaghen, vediamo cosa è stato fatto fino ad ora e come l'Europa si è presentata a questa COP15. I 15 paesi che al momento dell'adozione del protocollo di Kyoto facevano parte dell'Unione si sono impegnati a tagliare le emissioni collettive di gas serra dell'8% rispetto al 1990 nel periodo tra il 2008 e il 2012 e secondo quanto riportato nelle stime dell'Agenzia Europea per l'Ambiente tutti gli Stati membri sono sulla buona strada, ma quasi nessuno, e questo lo diciamo noi, ha pienamente raggiunto gli obiettivi. Se come previsto gli Stati membri attuano misure aggiuntive, la riduzione totale potrebbe essere pari all'8%. 8,5%, sebbene ciò dipenda in larga misura dagli sforzi congiunti di quattro dei principali paesi responsabili delle emissioni: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. L'uso dei meccanismi flessibili di Kyoto da parte dei governi potrebbe contribuire ad un'ulteriore riduzione di 2,2 punti percentuali. Il potenziamento nei pozzi di assorbimento dell'anidride carbonica, ad esempio migliorando la gestione delle foreste, contribuirà ad un'ulteriore riduzione di un punto percentuale. L'acquisto di quote di emissione dovrebbe determinare un'ulteriore riduzione di 1,4 punti percentuali. Nel dettaglio, Francia, Germania, Grecia, Svezia e Regno Unito hanno già ridotto le emissioni nazionali ad un livello inferiore ai loro obiettivi e del blocco a 15 soltanto l'Austria prevede di non riuscire ad adempiere al proprio impegno nelle condizioni attuali e dovrà intensificare di conseguenza gli sforzi in quei settori estranei al sistema di scambio delle quote di emissione. Tutti quanti dunque sono chiamati a rispondere alle urgenze di salvare il pianeta. Le attuali priorità, l'abbiamo detto, sono combattere il cambiamento climatico, preservare la biodiversità, ridurre i problemi sanitari che sono causati dall'inquinamento, attuare una gestione più responsabile delle risorse naturali. Detto tutto questo, nel corso degli anni a dimostrarsi più virtuosi nella riduzione di CO2 sono stati i piccoli comuni e questo argomento l'abbiamo affrontato anche in questa puntata, nella prima parte. Città e comuni, come abbiamo visto, sono molto operosi in questo senso e una storia che adesso vi raccontiamo viene dal Trentino Alto Adige, in particolare vi portiamo a Campo Tures. Questo comune di 5.000 abitanti si è prefissato degli obiettivi energetici ambiziosi, vuole diventare il primo comune altoatesino a zero emissioni di CO2 e per questo ha avviato diversi interventi in campo energetico che lo hanno anche fatto rientrare tra le mete di Enertour nel corso del 2009. Al progetto lavorano quelli del TIS Innovation Park. E allora, cosa significa diventare comune a zero emissioni? Lo abbiamo chiesto a Stefano Dal Savio, che è responsabile dell'area energia e ambiente del TIS Innovation Park. Cosa significa? Significa che Campo Tures si è dato un'agenda di interventi da realizzare nel campo della realizzazione degli impianti, quindi della produzione di energia e da fonte rinnovabile, e nel contempo si è dato anche degli obiettivi di efficientamento, quindi di riduzione del consumo energetico degli edifici comunali in primis, ma anche diciamo risanamento energetico degli edifici di proprietà dei più dei singoli cittadini. In sostanza il comune oggi può contare già su una serie di interventi realizzati, quindi l'agenda è già iniziata, significa che è stata realizzata, inaugurata l'anno scorso, una nuova centrale idroelettrica della potenza di 18 MW, quindi un'opera assolutamente importante che consente una produzione di energia elettrica per soddisfare il fabbisogno comunale e superare anche quello che è il fabbisogno locale, quindi poterla diciamo vendere e mettere in rete. È stato già realizzato dal 2001 un impianto a biogas che funziona legato al mondo dell'allevamento e dell'agricoltura, quindi alimentato con quelli che sono i reflui zootecnici e i prodotti di scarto delle attività agricole della zona, gestito da una cooperativa, quindi assolutamente dove ogni contadino porta il proprio diciamo reflui zootecnico, il quale viene elaborato all'interno dell'impianto con la produzione di energia Una volta, diciamo così, digerito questa matrice organica, viene distribuita sui campi come fertilizzante. Accanto a questo, già da tempo si sfrutta l'energia fotovoltaica sul territorio, diversi sono gli impianti, quindi non solo quelli a servizio, per esempio, della palestra comunale, ma anche a servizio di diversi privati. Esiste anche un impianto eolico della potenza di 300 kW gestito da un privato che da più di 10 anni ha pensato di sfruttare il vento per produrre energia. Questo è quanto è già applicato, ma se guardiamo al futuro, Campo Tures ha già deciso, quindi ha in fase di realizzazione, una centrale di teleriscaldamento a biomassa, con la produzione sia di energia elettrica ma soprattutto di energia termica, quindi con l'obiettivo di distribuire il calore attraverso una rete che raggiunge le singole utenze, quindi i singoli cittadini, che quindi possono riscaldarsi attraverso questa fonte rinnovabile che è la biomassa. Questo con l'obiettivo di coprire i 2/3 del fabbisogno di calore del comune. In più, come area energia ambiente del TIS Innovation Park di Bolzano, abbiamo proprio creato un'iniziativa che abbiamo denominato Ener Tour, quindi i tour dell'energia se vogliamo, con la quale abbiamo proprio l'obiettivo di andare a mostrare al grande pubblico quelli che sono i modelli funzionanti, modelli esemplari di sviluppo del territorio basato sul concetto di risparmio energetico e rinnovabili. Ecco che quest'anno abbiamo già accompagnato, è natura un'iniziativa che corre nel corso di tutto l'anno, però abbiamo avuto un grande interesse, una grande richiesta verso l'esterno per accompagnare visitatori verso questa realtà. Bene, e con questo si conclude Respiro. Io vi ricordo che potete riascoltare la puntata andando sulla pagina di radio24.it cercando poi Respiro, oppure potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. L'appuntamento è sempre il sabato alle 16:30 circa, la domenica in replica alle 14. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.